di nuovo in studio via Zanardi 369 per la precisione, Radio Città Fucicol, Breakfast Club con la rubrica Altri Suoni, seconda puntata di stagione 2023-2024 e seconda stagione anche per questo piccolissimo contenitore, oggi particolarmente ristretto perché vogliamo partire puntuali per i doppi appuntamenti in scena, anzi in mostra, scusate, dedicati all'arte che ci saranno nella rubrica odierna. Max Richter, vi ho citato nel buongiorno, nell'apertura, un musicista che si rifà a una classicità importante. Tra l'altro lui è molto riconosciuto anche in ambito di musica per commento visivo, premiato più volte per quanto riguarda queste realtà di suono a commento per film, immagini, video arte e quant'altro. Max Richter nasce nel 1966. È un compositore britannico, ma trova i natali a Hameln in Germania. Ho portato due lavori per una label dal nome quanto mai particolare, 130701. È una data, da quello che ho intuito, è la data di fondazione della label, che è una costola della Fat Cat Record, di cui vi ho già parlato. La sua musica, come ho detto, ha una composizione che dà alla classicità un ritorno con l'elettronica, con l'aspetto di ambient in stile Brian Eno, mettere insieme queste note, allo stesso tempo le emozioni che può dare la musica elettronica. Ecco, questo neoclassicismo in elettronica probabilmente è la prima volta che trova spazio in altri suoni, e non solo lo studio e l'intersezione per quanto riguarda la letteratura, come questo disco ispirato alle narrazioni, alle scritture di Kafka, di cui vi parlerò a breve, porta al titolo The Blue Notebooks. È uscito nel 2002, è un disco che vede non solo Max Richter al pianoforte, alle composizioni, ma anche un quartetto d'archi per, come già sentite sotto le mie parole, per evidenziare l'aspetto di scrittura classica. Ci ascoltiamo questo brano, un po' di note, rientriamo, faremo un mini DJ set di intersezione anche con il pianismo molto particolare e raffinato di Max Richter, oggi protagonista ad Altri Suoni. A tra poco. Di Philip Glass, di Steve Rake e ovviamente l'ambient di Brian Eno vanno a commento delle sonorità classiche, portando in elettronica un neoclassicismo. L'aspetto visivo per colonne sonore, video arte, video protagonista è anche riconosciuto con diversi premi. La label, che è una costola della Fat Cat Record, riporta semplicemente la data 130701. Immagino che sia la data di nascita della label indipendente che fra gli altri artisti vede anche Max Richter. Stiamo ascoltando questo disco che è il suo secondo disco, mi correggo, ho detto 2002, è 2004, ho guardato bene sulle note di copertina da questo vinile la data di uscita, in quanto riprende con l'intersezione letteraria già dal titolo The Blue Notebook, spunto dai quaderni in ottavo di Franz Kafka. Ha coinvolto l'attrice Tilda Swinton, che nel disco, come ho potuto ben notare subito in apertura, legge alcuni brani. Ho portato due lavori, ho portato anche il successivo del 2006, nel quale volevo evidenziare le qualità di pianismo di Max Richter, il suo terzo album, Songs from Before. In questo disco la parte, diciamo, narrata, affidata a Robert Wyatt. Probabilmente l'esponente più in luce per quanto riguarda una rilettura classica e le intersezioni in elettronica, elettronica che prende l'ambient di Brian Eno, la classicità di Flip Glass e la scrittura personale al pianoforte accompagnato dal quartetto d'archi, candidato tra l'altro in carriera. Vi ho parlato di un aspetto molto importante nel suo talento per musica da commento visivo, che sia videoarte o colonne sonore, e durante la sua carriera è stato candidato a 3 Grammy Award, tra cui quello di miglior compositore dell'anno nel 2021. Quindi non abbiamo esattamente un outsider oggi protagonista in altri suoni. Decisamente un grande talento. Oggi abbiamo presentato Max Richter, chiudiamo con un ritorno dopo il disco che ho accennato, The Songs From Before, con il lavoro di intersezione letteraria con i lavori di Franz Kafka, The Blue Notebook. Poi linea in mostra, due rubriche, i giorni della metafisica, le giornate metafisiche, ovviamente a Tresigallo, è la seconda volta che le presentiamo, la scorsa edizione già protagoniste nella rubrica Regola d'Arte, anche se per questa rassegna che seguo con grande interesse già la sesta edizione, e a seguire il Sea Fest a Savignano sul Rubicone per quanto riguarda la fotografia, tra pochissimo sui 103.1. Buon ascolto.